sarà questa storia che brucia in un ricordo dentro di me. Chissà se cambierà, chi lo sa, ma e nasce la forza in un ricordo d'amore, batte forte nel cuore che fermo non sta, perché nel cuore un ricordo d'amore batte solo il